In scena 8.06 minuti per questa vigilia di weekend, tra l'altro weekend che darà il via con la domenica 21 aprile, liberazione dal nazifascismo per la nostra città di Bologna, passando per la liberazione nazionale ovviamente del 25 e poi dal 1 maggio festa delle lavoratrici e dei lavoratori, con una serie di incontri importanti che saranno su Radio Città Fujiko. È un grande onore tra l'altro per il Breakfast Club dare un po' il via e un'anticipazione per quello che sarà giovedì 25 aprile alle ore 18.30 al cortile del Conservatorio Martini a Bologna, con noi drammaturgo e regista Paolo Billi, che già abbiamo conosciuto, per approfondire le motivazioni di incontro. Buongiorno Paolo, bentornato con Radio Città. Buongiorno. Bene, allora diamo il via a questi giorni con la presentazione in anticipo per un 25 aprile che è tutti i tempi e sarà anche in tutti i posti. Del resto è questo il titolo da furore di Steinbeck, e poi ne parleremo anche il motivo di ispirazione. Sarò in tutti i posti. Di cosa si tratta e qual è il tema centrale di questo incontro, di questo spettacolo, Paolo? Allora, sarò in tutti i posti, l'evento conclusivo del progetto Voci, che quest'anno sarà allestito all'interno del chiostro del Conservatorio Martini, con inizio alle 18.30, ingresso libero. Dicevo, la conclusione del progetto Voci, progetto che è attivo ormai da più di 10 anni, che dedica le sue attività annuali a un tema particolare. E negli anni passati si è scelta la strada di individuare delle date anniversarie intorno alle quali lavorare, e quindi si è lavorato chiaramente sul tema della resistenza, sulle letture che ci sono state nel corso di 45 anni di quello che è stata la resistenza, per arrivare ai bombardamenti sulle città, quindi fare collegamenti tra il primo bombardamento che avvenne su Barcellona nel 1936, tra l'altro compiuto da una squadriglia italiana, fino ai bombardamenti odierni sulle città. Insomma, per 10 anni abbiamo guardato al passato. E da quest'anno abbiamo deciso con Luca Alessandrini di cambiare prospettiva e dedicarsi a dei temi di attualità, di forte impatto, quale migrazioni. Quest'anno abbiamo affrontato il tema delle migrazioni attraverso una serie di attività che si sono svolte in conservatorio, al Mambo, presso diverse biblioteche del comune di Bologna, per avviare questa riflessione fuori dagli schemi usuali. Tra l'altro Radio Fujiko ha seguito puntualmente l'evolversi di tutto questo lungo progetto. Arriviamo al 25 aprile, l'appuntamento è tradizionale, è sempre stato realizzato in posti diversi della città. Quest'anno il conservatorio è una tappa fondamentale, anche a sancire quello che è stato il lavoro estremamente proficuo di tutti questi anni con l'istituzione conservatorio diretta ora dal maestro Zarrelli. Quindi il pubblico sarà invitato a permanere nel cortile del conservatorio, dove verranno riproposte una serie di pagine tratte da Furore di Steinbeck, musicate dalla classe di musica applicata per elettronica e violoncello dal vivo. Quindi due attrici assieme a un violoncello daranno così corpo alle parole. Saranno presenti anche tre detenute della casa circondariale della Dozza, con le quali lavoro da anni, che si sono chiamate Compagnia delle Sibilline, e che parteciperanno in maniera ridotta all'evento. Ricordiamo che è giovedì 25 aprile alle ore 18.30, Piazza Rossini 2, il cortile del Conservatorio Martini, ovviamente a Bologna. Sarò in tutti i posti, di cui appunto con il percorso Voci abbiamo una presenza con la nostra emittente e, come ho detto, con l'inizio delle giornate che dal 21 aprile arriveranno al 1 maggio, soffermandoci con quello che è la giornata di liberazione nazionale del 25 aprile, sottolineiamo questa motivazione di incontro e di fine percorso, di cui parleremo magari anche nella nostra conversazione con Paolo Billi. Parleremo anche della scelta di questo lavoro di Steinbeck. Possiamo ascoltare un po' di musica? Puoi restare un pochettino in diretta per questa conversazione? Ok, Around Midnight, il capolavoro di Thelonious Monk, però rivista qui da un grande compositore altrettanto talentuoso, George Russell. A tra poco. Disco capolavoro sia per il brano qui interpretato, al contralto strozzato, assolutamente e emotivamente coinvolgente, dal grande Eric Dolphy. L'arrangiamento e la composizione di George Russell. Il disco è Aesthetic, un disco di una bellezza immensa. Questa, secondo me, è l'interpretazione di Round Midnight più riuscita, più, beh, certo l'originale, chiaro, che, ma poi con uno standard delle diverse interpretazioni, questa è quella che più nel cuore mi sta, e ovviamente la composizione di George Russell, l'arrangiamento, l'interpretazione struggente di Eric Dolphy, e il gioco è fatto, non è facile, ma è fatto. Sarò in tutti i posti, cortile del Conservatorio Martini, Piazza Rossini 2 a Bologna, giovedì 25 aprile alle ore 18.30. Drammaturgo e regista Paolo Billi, qua al telefono con noi. Ti sei abbandonato alla musica o ci sei, Paolo? Okay. No, ci sono, ascoltando questa splendida interpretazione. Grazie. E nel comporre questa drammaturgia, come abbiamo anticipato, alcuni capitoli del romanzo Furore di Steinbeck. Perché? Cosa ha colpito del romanzo? E non senza svelare perché quei capitoli. Beh, il romanzo di Steinbeck è una testimonianza artistica eccelsa riguardo a quel periodo estremamente cupo, duro, che fu negli anni 30 la migrazione all'interno degli Stati Uniti dagli stati del nord verso la California. E quindi sulla Route 66 questa fiumana di persone, di contadini sradicati dalle loro terre che andavano verso la California, perché la California era la terra prospera, ricca, in cui avrebbero trovato lavoro. È chiaro che questa immagine ricorda quanto sta accadendo da noi. Sì, ricordando che il mondo è fatto di migrazioni, quindi certo. Certo, questo. E la cosa, ci sono alcuni passaggi di Steinbeck che sono fulminanti, i commenti, diciamo, degli americani che vedono questi altri americani, occhi azzurri, biondi, e che commentano questi migranti dicendo: sono peggio dei negri del sud. Sì, quando tremendo, arrivano questi, tremendo, arrivano sì, questi e ci fanno fuori. Ecco, questo è un'altra, come dire, è un'immagine potente che ci fa interrogare sul nostro presente. Sì, tra l'altro quello che abbiamo vissuto negli anni 50 con la questione meridionale, l'arrivo appunto al nord e poi in seguito anche con le migrazioni, e questo avere sempre, nel caso di Steinbeck, sono altri punti cardinali, est e ovest, ma in questo caso possiamo dire abbiamo sempre un sud del mondo, no? C'è sempre un sud o qualcosa che è diverso, che andiamo a mettere in comparazione peggiorativa in maniera totalmente ingiustificabile e grave, senza renderci conto che noi stessi siamo costantemente in movimento. Trasformare tutto ciò in qualcosa di percorso naturale, di sviluppo, di crescita, neanche di tolleranza, ma di accettazione positiva, è assolutamente un messaggio che fa riflettere attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso la diffusione anche della letteratura e della conoscenza. Quindi onore al merito per questo progetto che arriva il 25 aprile ed è esattamente un abbinamento molto importante, e a questo punto abbiamo parlato di un coinvolgimento e come si sviluppa tutto ciò, come si interagisce con il pubblico, Paolo? Diciamo l'evento musicale non prevede uno stazionamento del pubblico su sedie e quindi il pubblico è invitato a stare nel cortile, ad ascoltare le parole e le musiche molto belle composte per l'occasione, abitando il cortile. Quindi anche la, come dire, situazione fisica in cui si pone lo spettatore è quella di stare in movimento. Sì. E vedremo che cosa accade, perché essere questa è la componente performativa. Certo, certo. Esatto. Intanto tra le collaborazioni citiamo Sonia, Stefania e Paola della Compagnia delle Sibilline della Casa Circondariale di Bologna, già riportato anche da Paolo, al violoncello Mario Astone, le musiche composte dagli studenti della Scuola di Musica Applicata del Conservatorio Martini, il direttore Zarrelli, insomma anche uno spettacolo molto partecipato, si può dire, è un palcoscenico particolare ma anche bello pieno, Paolo. Sì, questa è la caratteristica di Voci, l'evento finale compone, diciamo, tutte le persone che a diverso titolo e con specifici diversi hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto che dura intorno ai 5 mesi. Quindi ricordo anche la collaborazione col Mambo, sì, che è stata come sempre molto molto interessante e proficua. Ed è un percorso appunto che arriva il 25 aprile ovviamente 2024 alle 18:30, sarò in tutti i posti, da Furore di Steinbeck, la drammaturgia e regia di Paolo Billi. Io Paolo ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione, ovviamente visto che siamo al 19 verrà ribadito anche per la prossima settimana, faremo dei flash per questo motivo di incontro. Io ti auguro una buonissima giornata e magari ci diamo appuntamento, visto che ormai ti posso considerare co-conduttore per molte parti della rubrica In Scena, con grande piacere fra l'altro, e quindi ti aspetto nuovamente, sei mattiniero e questo è un valore aggiunto nelle nostre conversazioni. Pensa quanti caffè che ti devo offrire. Grazie. Beh, intanto. Una buona giornata. Grazie Paolo, ciao. Thank you. Turntable per lo recording, tra l'altro tutt'altro che da tradurre il titolo, anche se diciamo che portandolo letteralmente è deplorevole, ma non mi pare proprio questo intenso beat elettronico scritto in maniera molto leggibile e nello stesso tempo incalzante. Red Snapper per Warp Record nella parte iniziale della loro carriera, in seguito lo recording, tra la musica elettronica, una delle formazioni, uno dei progetti per meglio dire che più consiglio. Come consiglio a Forest Mighty Black, Dubaie, il brano che ci accompagna alla pubblicità, poi rientriamo e riprendiamo con un altro last minute in mostra. Abbiamo due last minute che hanno contenuto il progetto in scena, che è la motivazione di incontro per il venerdì. Si alza al sipario sui 103.1. In conclusione, Dubaie dei Forest Mighty Black, a breve nuovamente in diretta, ricordando che dalle 11.30 alle 12.30 abbiamo Jazz Live con gli eventi per il weekend al Torrione di Ferrara, il lunedì con il Paradiso Jazz e Camera Jazz. Questa sera avremo anche intervista con Daniela Firpo per il concerto che avrà appunto il palcoscenico del Camera questa sera. A tra poco, dopo la pubblicità.